La classe terza A è composta da 15 alunni, roba che se uno prendesse il mappa mondo sarebbero tutti rappresentati i posti del mondo. Il primo giorno di scuola io me lo ricordo come se fosse ieri, no? Nella piazzetta c'era una gran caciara, roba che se uno si mette lì e addrizza l'orecchio non capisci niente. E ci credo, ci stanno tutti, divisi però, eh? I rumeni con i rumeni, i filippini con i filippini, i cinesi con i cinesi, gli indiani con gli indiani, i negretti da soli, pure perché ce ne sta uno. Poi ci stanno quelli delle case bianche con quelli delle case bianche, quelli delle case occupate con quelli delle case occupate, e poi ci stanno i maschi. I maschi stanno all'angoletto che fanno vedere la piuma come i paù. E dall'altra parte ci stanno le femmine li guardano, ridono, ammiccano come delle deficienti. Mentre i fratelli più piccoli piangono nel passeggino. Le mamme urlano ai fratelli più piccoli che piangono nel passeggino. I papà prendono i corrieri dello sport. Li sistemano sul sedile della macchina. Aprono la portiera, chiudono la portiera. Si mettono in mezzo alla piazza, gli parte la mano e cominciano a gridare. Oh! Dove vanno a lavorare? Entro. La classe terza A è piccola. C'è quello che si lancia le borse, quello che si lancia le cartelle, quello che si lancia le lavagne, quell'altro che si spacca le lavagne sulla capoccia, e vedo da lontano un ragazzino che guarda una cartina. Bella l'Europa da qui, dico io. Sembra unita, mi risponde. Oh, eccola De Marchis! Tutti quanti cominciano a sistemare i tavoli, le sedie, uno accanto all'altro. Una polvere di gesso si spanne per tutta quanta la stanza, che pare che è passata la fata turchina a sistemare tutto. Entra la De Marchis. Buongiorno! Buongiorno, tutti in piedi. Si mette seduta, apre il registro e fa l'appello. Abbati, presente. Balzelli, eccolo questo lì. Chang, bella presso lei, bella presso lei, bella bella bella presso lei, bella presente. Cozzoli Chandal e Cozzoli Chanel numero 5, eccolo, sarà. So qua, ciao. De Santis! Sempre essere sempre io, sempre! De Santis, che cosa hai fatto quest'estate? Io niente, professore, sono innocente! Che cosa hai studiato, De Santis? Non ho potuto studiare perché hanno fatto i lavori a casa e hanno murato dentro nonna con tutti i libri. Adesso è sempre io, però essere sempre io. E tu che sei? Tu che sei all'ultimo banco? Tu che guardi la cartina? Vieni un po' qua, ma... Marco avanza lento. Si sente nudo come mamma l'ha fatto, ma lui avanza, lento, timido, orgoglioso, arrogante, come vero uomo di Bosnia, direbbe suo padre. E tu chi sei? Marco indica il suo nome col dito. Qualcuno ride, qualcun altro sghignazza. Silenzio! E che siamo al mercato? Che c'è scritto? Marco Vucevic. Marco si scrive con K. A ricreazione stanno tutti nel cortile. Ah, regà! Pronti? Giochiamo a chi a parella! Sotto Abbati! Dai, Abbati! Dai, Abbati, che già fai, dai! Preso, Abbati! Bravo! Vieni un po' qua, Abbati! Vieni qua, Abbatuccio di casa! Adesso vai dalla professoressa De Marchis e gli dici... Ascolta, vai, gli dici così! Professoressa De Marchis ebrea! Hai capito? Sì, sì, sì! Più forte, più forte! Professoressa De Marchis ebrea! Più forte! Professoressa De Marchis ebrea! Bravo! Adesso dimmi un'altra! Professoressa De Marchis napoletana! Più forte! Professoressa De Marchis zingara, perché gli puzzano le celle! Più forte, professoressa De Marchis Ignazio! Non vedi chi c'è? Marco con la K. Non vedi che figurino? Manda le comprate ste Nike Shox a Latina. La zia le burino, puzzi de cacio e de pecorino. Che sarbanese? No. Vengo da Bosnia. E non sa? Sta vicino a Italia. E non sa? Sta dall'altra parte dell'Adriatico. E non sa? Sta in ex Jugoslavia. E non sa, non sa, non sa. Mossa qua, via qua. Marco K. Anzi, via qua, Badi. Dia qualcosa, dia qualcosa, dia qualcosa. A Marco K. A Marco K. A Marco K. Ma che sei albanese? No, dico... Marco K, ma tu sei zingaro? Marco K, guarda che sto a parlare con te! Marco K, perché non vuoi parlare con me? Che t'ho fatto, eh? Che t'ho fatto, Marco K? Che c'ho i pupazzetti in faccia, eh? Guarda un po' questo! A Marco K, mo te lo dico che sei! O sai che sei, Marco K? Mo te lo dico, sei una lingua mozza! Hai capito che sei? Sei la lingua mozza! Hai capito? Lingua mozza! Lingua mozza! Hai capito? Lingua mozza! Lingua mozza! Lingua mozza! Lingua mozza! Lingua mozza! Quello è stato il primo giorno di scuola di Marco. Una giornata che non passa mai. Di quelle che tira su un venticello che dà pure fastidio. La De Marchis spiega e tutti stanno appenicati. Anzi, qualcuno agli ultimi banchi dorme. Marco si rigira, si ripiccola, si rivolta come una bestiola in gabbia. Poi quatto quatto, prepara un aereo di carta, soffia sulla punta e lo fa volare fuori. Io lo sa dove sta andando. Per lui potrebbe essere andato a finire pure in Cina, in Afghanistan, in Irlanda. Ogni era una città, ogni città un parente. Lo zio Ordem che fa il cappettiere in Australia, la zia Alia che si è sposata e si è trasferita in Argentina e fa la maestra, e poi c'è il cugino Amede, quello che sta su Pettorino, che c'ha quattro figli, e poi c'è Asilab, e poi c'è Salem e poi c'è papà Bashid che lavora su marciapiedi sulla casilina. Passati gli archi ci stanno sempre, no, un gruppo di tunisini, algerini, rumeni, slavi, curdi, polacchi. C'è una macchina che si ferma, un gruppo di persone che la circondano, quella macchina abbassa il finestrino. Io faccio pittore, io metto parquet, io posso pure idraulico. Fanno traslochi, pittura parete, buttano giù muri, scavano tracce, sbucciano i cavi di rame con gli zingari. Noi siamo su strada, su marciapiede, come prostitute. Quanto vuoi? 30. Famo 25, zompa su. Quando Marco sente queste cose, se ne vuole andare dall'altra parte della stanza. Perché Marco non vuole fare la fine di suo padre. Marco non vuole andare in giro al mercato con le buste da spesa del Lidl sul raccordo, con le scatole, con le scatoline, con le scatolette. Marco non vuole andare in giro con Nokia 3310. Marco non vuole andare in giro con le scarpe dei cinesi, con le giacche dei cinesi, con i pantaloni dei cinesi, col cappelletto dei cinesi. Marco non vuole fare lo schiavo. Marco non vuole fare il servo. Marco vuole diventare un campione, come il cugino Ahmed, detto il Paolo Rossi, campione della Stella Rossa di Belgrado, anno 89-90, presenze 32, gol segnati 18. Il cugino Ahmed a Marco gli ha imparato tutti i segreti del mestiere, eh? Lo fa svegliare la mattina alle 6:30, lo fa correre. Immagina che ci sia un mostro, gli dice, un mostro a tre teste, un mostro a quattro occhi, un mostro senza voce, un mostro che ti corre dietro. Immagina che ci sia un mostro e Marco corre, corre, che il sole si ferma, che il tempo si ferma, che il cielo si ferma. Marco corre sulla staccionata del vecchio Slavko, dove il vecchio Slavko c'ha le mucche e corre forte, sale sulla staccionata e vola. E a terra. E tutta la maglietta e tutti i pantaloni e tutta la faccia sono sporche di cacca. Di cacca delle mucche che fanno tanta cacca. Chissà che fine ha fatto il cugino Ahmed detto Paolo Rossi. Campione dello Stella Rossa di Belgrado, anno 89-90, presenze 32, gol segnati 18. C'è pure carnevale e a carnevale si fa ricreazione tutto il giorno, si mettono le stelle filanti in giro, qualcuno porta le frittelle, quei dolci tutti unti con lo zucchero a velo sopra, qualcun altro porta le bevande e i maschi fanno la gara dei rutti con la Coca-Cola e tutto diventa un appiccicaticcio, i tavoli, le mani, le sedie, le bidelle che schiumano, la discrezione, portaci a tua madre e metto sta marana. A carnevale ogni scherzo vale, fanno le femminucce, Marco la odia sta festa. È l'unico che non c'è il vestito, il costume. De Santis si è messo la spada del Zorro e il cappuccio della Moragno. La maglietta da Roma. Catramina invece c'ha una tuta tutta rossa con la pubblicità attaccata addosso. Sgomma, svicola, smarca, scala la marcia, riprende, sorpassa, fa testa coda, sbatte la capoccia contro la bidella, ingorpo, catta via! A carnevale ogni scherzo male. Oh, guarda chi c'è! Ci stanno quelli della terza B. Ampedi, ci stanno quelli della terza! A Pagliaccio Razziali. Agonio romanista. Ve famo 30-0. Ciao core. Sì, ve segno d'orecchia e pure de naso. Vabbè, allora ci vediamo alle tre al campetto. Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, ne manca uno. Chi famo giocare? A Cosu. Cosu, Marco K, ci sei giocato a palloni? Vieni qua, allora, mettete a difesa, va. Pronto? Sì, sì, pronto. Sono pronto. Mi spoglio, mi levo, mi cambio la maglietta, mi metto la maglia di Paolo Rossi, campione dello Stella Rossa di Belgrado, anno 89-90. Quando prende la palla, succede il parapia che si butta per terra, che si arrampica sugli alberi, che comincia ad urlare, che batte i piedi e urla, che urla e basta, e non lo sa perché, per un attimo, un istante, si fermano tutti. Marco sembra un principe quando col pallone in mano attraversa il cerchio del centrocampo della classe terza A, vuole volare. Vuole volare sopra il cielo di San Basilio, sopra i soffitti, sopra le case. Smarca un giocatore, due giocatori. Arriva davanti al portiere, smarca pure il portiere. Tiro! Tiro! Tiro! Gol! Marco è diventato il campione della classe terza A. Tiro, gol! Ha segnato 4 gol. Tiro, gol! Un video, ma chi è quello? Quello è Marco KK. Ammazza quanto è buono. A Marco KK, sono la tua Hillary. Che poi oggi se va in gita pure se fa freddo, che le mamme si sono raccomandate di lasciarsi addosso le sciarpe. Ci stanno tutti, Salvatore, Cadramina e De Santis. E Marco si sono messi all'ultimo posto dell'autobus, quello dove si fa cacciara, confusione. Ci sta pure il nuovo compagno di classe, si chiama Nedim. Nedim guarda fuori dalla finestra. Oh, regà, tiramogli i cartoccetti. Dai, pronto? Vai, uno. Bravo, così, meglio, meglio. Un altro più forte ancora. Bravo, dai, continua così, bravo Marco HK. Bravo. Professoressa, sta zitto. Un altro. Professoressa, sta zitto, devi sta zitto. Hai capito? Nedim, io te prendo, ti appiccico addosso al muro, te faccio fare la cometa. Nedim, te prendo, te metto in tasca e te meno quando c'ho tempo. Hai capito? Nedim, tu sei un cacasotto, sei un cacasotto, sei un cacasotto. Guarda che tu sei come me, pure tu sei straniero, come me. Siamo stranieri a paese nostro. Pure il nonno mio è straniero. Zitto, Sandy, silenzio. Pure il nonno mio è Sandy, silenzio. Pure il nonno mio, professore, è straniero, hai capito? È da Calabria. Il nonno mio, professore, ce lo sai che ha fatto? Siccome che c'era la fame, allora è partito e è nato a nord. E a nord, ce lo sai come chiamavano, professore? Lo chiamavano così, lo chiamavano Terrori. Allora il nonno mio si è infumato, ha preso, è partito e è nato dall'altra parte, è nato in Francia. In Francia sono persone serie, e ce lo sai come lo chiamavano, professore? Lo chiamavano così, Maccheroni, hai capito? Maccheroni lo chiamavano, professore. Allora il nonno mio si è infumato, è nato in Svizzera, e in Svizzera sono persone serie, e ce lo sai come lo chiamavano, professore? Cincali. E ce lo sai che vuol dire, professore? Cincali vuol dire zingari. Hai capito come chiamano, professore? Nonno mio. Allora il nonno mio ha preso, è partito e se n'è andato in the United States. È nato in America. E ce lo sai come lo chiamavano il nonno mio? E il nonno mio in America lo chiamavano così, lo chiamavano WAP. E ce lo sai che vuol dire, professoressa? Ce lo sai che vuol dire, professoressa WAP? Molto lo dico che vuol dire, professore. Vuol dire without paper, senza documenti, senza passaporto, clandestino. Hai capito? E il nonno mio come lo chiamavano? Clandestino. Allora il nonno mio è ritornato in Germania lo chiamavano cazzo e maghe, e poi è ritornato in America, lo chiamavano Ding, e poi dopo è ritornato in Francia, lo chiamavano Rital, allora è ritornato in Svizzera, lo chiamavano Cincali, allora è ritornato a casa sua, a Roma. L'ultimo giorno di scuola. Marco se lo ricorda come se fosse ieri. Ci stanno tutti fuori, tutti quanti, tutti i genitori. I genitori cominciano a spingere, qualcuno a passare avanti, qualcuno comincia a litigare. Silenzio! Urla la De Parco, sa che stiamo al mercato! Ma nessuno gli dà retta. Capirai, i polacchi ce l'hanno coi russi, i russi coi polacchi, i negri coi marocchini, i marocchini coi negri, i zingari coi rumeni, i rumeni coi zingari. Gli italiani ce l'hanno con tutti. Puzzano. Non parlano una parola di italiano, pure se stanno qui da 10 anni, e se stava meglio quando se stava peggio, e quando c'era lui certe cose non succedevano. Mati, tutti mati, dice papà Bashid mentre tenta di afferrare la pagella e portarsela a casa. Allora quelli della terza A stanno lì fuori e dice: che famo? Che famo? Giochiamo a pallone? Famo maschi contro femmine? No, famo tutti contro tutti. Allora Marco prende il pallone e lo lancia. Il pallone vola. Vola sopra il cielo di San Basilio, sopra i soffitti, sopra i tetti, sopra il mondo. E tutti quanti, in silenzio, rimangono a guardare. somebody dreams of bringing.